Ottobre piovono libri. Oggi vi segnalo un evento che si svolgerà a partire da domani e fino a domenica 11 a Rovigo. Si chiama La Fiera delle Parole, un festival che vuole celebrare il valore della parola e lo fa in una serie di incontri con scrittori, giornalisti e magistrati. L'edizione di quest'anno, la terza, è dedicata soprattutto ai temi della giustizia, della legalità e dei diritti umani. Qualche esempio. A parlare di informazione ci saranno Marco Travaglio e l'ex magistrato Gerardo Colombo, ma anche Dacia Maraini, che discuterà di informazione e mafie. Mercoledì 7, incontro con Enrico Mentana, che presenta Passionaci, il libro nel quale racconta la sua esperienza da giornalista attraverso le vicende che negli ultimi anni hanno fatto la storia dell'Italia, come per esempio il sequestro Soffiantini. Fu proprio Mentana, infatti, a ricevere la lettera dei sequestratori con un pezzo dell'orecchio dell'imprenditore. Ecco come qualche tempo fa Mentana raccontava ad Alessandro Milan che cosa prova un giornalista a trovarsi al centro di una storia drammatica come quella. Si rende conto che lui stesso può entrare nel tritacarne e si accorge di più quanto quel tritacarne può essere pericoloso. Poi insomma entrano altri fattori. Ero abbastanza convinto sin dall'inizio che quella lettera fosse stata teleguidata dai rapitori. Ma cosa devo fare? Pubblicarla o non pubblicarla? Sono cose che comportano la salvaguardia o la messa a repentaglio di vite umane. Ovviamente noi siamo soltanto gente che fa informazione, che cerca di farla bene, ma quando si trova di fronte a qualcosa di più ha dei problemi, ovviamente cerca di agire a lume di coscienza e consultandosi con le autorità costituite. Gli incontri della Fiera delle Parole si svolgeranno all'ex zuccherificio a Rovigo. Tutte le informazioni su www.lafieradelleparole.it. Per gli altri eventi di ottobre piovono libri invece www.cepel.it oppure il nostro sito radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco. Ottobre piovono libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.